Hashtag Autotrasporti. Annunciati dalle indiscrezioni, ora i tagli inclusi nel capitolo della revisione della spesa pubblica dedicato al settore dei trasporti sono nero su bianco e online. Il rapporto, elaborato dall'ex commissario Cottarelli e pubblicato ieri sul sito revisionedellaspesa.gov.it, include tra i trasferimenti alle imprese definiti aggredibili, ossia quelli sui quali si può intervenire, 2 miliardi e 100 milioni destinati alla voce autotrasporti, settore automobilistico e cantieristica. Una cifra che, stando a quanto si legge nel documento, è prevalentemente ascrivibile proprio al settore dell'autotrasporto. Per il mondo dell'autotrasporto, oltre 100.000 imprese, il taglio potrebbe determinare anche lo stop ai 250 milioni di euro stanziati dalla legge di stabilità a favore di interventi di sostegno. Soldi che sono arrivati a mo' di compensazione nel momento nel quale l'annunciata riduzione del 15% del rimborso delle accise sui carburanti è stata spostata da quest'anno al 2019. Una mazzata per le imprese che anche attraverso questa misura stanno costruendo la strada per uscire dalla crisi. I segnali che arrivano dai dati sul traffico merci in ripresa in tutta Europa sono piuttosto confortanti. In Italia, lo sanno tanto gli autotrasportatori quanto gli automobilisti, le accise sono tra le più alte d'Europa e condizionano non poco un mercato sul quale gravano il fenomeno del cabotaggio abusivo e la concorrenza sleale praticata soprattutto da imprese estere. Così Joran Gutgeld, deputato del PD, consigliere del Premier Renzi per la Spending Review. Direi che l'obiettivo per il 2016 per assicurare che possiamo eliminare del tutto le clausole di salvaguardia è attorno a 10 miliardi. Noi guarderemo tutta la spesa pubblica, quindi non c'è un'area particolarmente escluso. Questo nuovo capitolo della Spending Review, che comprende anche il settore ferroviario e quello del trasporto pubblico, dovrebbe essere inserito nel DEF, il documento di economia e finanza, del quale il Consiglio dei Ministri discuterà in vista della presentazione attesa entro il 10 aprile. Un documento del quale si attendono indicazioni di risparmi per 10 miliardi di euro. Sono quelli che servono, secondo la Ragioneria Generale dello Stato, per non ricorrere all'aumento delle tasse come previsto nelle clausole di salvaguardia per il 2016. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Hashtag Autotrasporti. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.